Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che vi sto per predicare perché è la parola di Dio. Nello scritto di Giovanni, dove racconta la storia di Gesù di Nazaret, al capitolo 8, dal versetto 21, leggiamo alcune parole. Si tratta di un dialogo, o comunque sia di qualcosa che Gesù disse a dei giudei che non credevano in lui. Allora è scritto quanto segue. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: si ucciderà egli forse, poiché dice: dove vado io, voi non potete venire. Ed egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io, il Cristo, morrete nei vostri peccati. Dunque Gesù disse queste parole a dei giudei che frequentavano la sinagoga il sabato, che ascoltavano la lettura della legge, dei profeti, dei salmi, dei giudei che secondo la legge di Mosè praticavano delle opere che appunto sono le opere della legge. Questi giudei credevano nell'esistenza di Dio e aspettavano anche la venuta del Messia o Cristo, del quale avevano parlato i profeti antichi da parte di Dio. Infatti i vari profeti che erano ebrei parlarono da parte di Dio della venuta del Cristo che doveva venire nel mondo. Ebbene, questi giudei con i quali parlò Gesù, ai quali parlò Gesù, rifiutavano di credere che lui era il Messia. E Gesù perciò gli disse: morrete nel vostro peccato. Gli disse anche queste parole: se non credete, o meglio, poi gli ribadì la stessa cosa dicendogli: perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Ora, che cosa significa morire nei propri peccati? Significa morire, naturalmente qui si parla della morte fisica, morire con i propri peccati ritenuti anziché rimessi. Significa morire schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, quei giudei erano sotto la legge ed erano quindi sotto il peccato. Questo è di fondamentale importanza per capire la dichiarazione di Gesù: morrete nel vostro peccato, morrete nei vostri peccati. Ora, per non morire nei propri peccati è indispensabile credere che Gesù è il Cristo o Messia. Perché questo? Perché di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque, la remissione dei peccati che io vi annunzio nel nome del Signore Gesù si ottiene solamente credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni scelti da Dio. Ora, questa è la buona novella, nella quale l'uomo, che è peccatore, in quanto schiavo del peccato, deve credere per ottenere la remissione dei propri peccati. Nel caso in cui l'uomo rifiuta di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, i peccati gli sono ritenuti, cioè gli rimangono quei peccati, gli rimangono addosso, rimane gravato sotto il peso dei peccati, l'uomo che rifiuta di credere che Gesù è il Cristo. Ora, è indispensabile dunque, lo ribadisco, per ottenere la remissione dei propri peccati, credere nella buona novella che Gesù è il Cristo o Messia. Questo vale sia per i giudei e sia per i gentili. Allora, se l'uomo rifiuta di credere che Gesù è il Cristo, morirà nei suoi peccati, quindi con i propri peccati ritenuti. Dunque, che fine farà? Che fine lo aspetta? Lo aspetta un orribile fine. Coloro infatti che muoiono nei propri peccati vanno all'inferno o nell'Hades, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma è pur sempre un fuoco, e dove appunto le anime di coloro che vi si trovano sono tormentate dal fuoco. È dunque spaventosa la fine che aspetta coloro che muoiono nei loro peccati. Ora, tu che mi ascolti e che sei sotto il peccato, come lo erano quei giudei a cui Gesù parlò, devi sapere che se morirai nei tuoi peccati, scenderai nelle fiamme dell'inferno. L'inferno infatti esiste, è un luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. L'inferno non è una favola, non è un luogo allegorico, metaforico, nella maniera più assoluta. E non è vero neppure che l'inferno è su questa terra, come si sente spesso dire. Ah, l'inferno è su questa terra. No, l'inferno non è su questa terra. L'inferno è nel cuore della terra ed è un luogo di tormento orribile, di cui la scrittura parla, e da cui io vi avverto, perché è là che voi che siete sotto il peccato siete diretti. Voi non siete diretti in paradiso, come avete sentito dirvi da alcuni bugiardi che mentono contro la verità, i quali pensano e dicono che tutti alla fine saranno salvati in paradiso. No, voi che siete sotto il peccato, voi siete sulla via che mena all'inferno. Quindi io vi esorto a ravvedervi e a credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Otterrete in questa maniera la remissione dei vostri peccati, perché il Signore è misericordioso, è pronto a perdonare, è grande in benignità il Signore. E nel momento in cui otterrete la remissione dei vostri peccati, sentirete un sollievo grande, una pace immensa, una gioia ineffabile e gloriosa, perché è questo che avviene quando si ottiene la remissione dei propri peccati. Perché i propri peccati vengono cancellati dal sangue prezioso di Gesù, che egli sparse sulla croce per la remissione, già per la remissione dei nostri peccati. Credendo nell'Evangelo otterrete anche la liberazione dai vostri peccati, sempre in virtù del sangue che Cristo Gesù ha sparso sulla croce. Sarete dunque riconciliati con Dio e smetterete di essere nemici di Dio, perché attualmente siete nemici di Dio e l'ira di Dio è sopra di voi. E credendo nella buona novella che è Gesù Cristo, otterrete anche la vita eterna, perché chi crede ha vita eterna. Otterrete il dono ineffabile, il dono di Dio ineffabile, la vita eterna in Cristo Gesù. E quindi avrete la certezza che quando morirete, non morirete nei vostri peccati, ma morirete in Cristo Gesù. E quindi il Signore vi salverà nel suo regno celeste, in paradiso, dove c'è la gloria, dove c'è pace, dove non c'è più né grido, né dolore, né pianto, né fatica. Quindi coloro che muoiono in Cristo vengono salvati dal Signore nel suo meraviglioso regno. E là entrerete se appunto crederete che Gesù è il Cristo. Avrete la certezza di scampare all'inferno. Scampare, sì. Avrete proprio la certezza assoluta che il Signore vi strapperà dal fuoco per farvi entrare nel suo regno celeste. Quindi ravvedetevi, abbandonate i vostri pensieri iniqui e vani, cambiate mente dinanzi a Dio, cambiate mente e credete che Gesù di Nazareth è il Cristo. E veramente vi sentirete rinascere nel momento in cui crederete che Gesù è il Cristo, perché Dio vi rigenererà mediante la parola di verità. E quindi diventerete dei figlioli di Dio. Non sarete più figlioli di ira, ma figlioli di Dio, per la sua grazia. Quindi vi ho avvertito della fine che farete se morirete nei vostri peccati. Ve l'ho detto chiaramente, e quindi voi ora sapete che cosa vi aspetta, ma vi ho anche annunciato la via della salvezza, Vi ho annunciato cosa dovete fare per non morire nei vostri peccati. Sì, perché vi ho detto che dovete credere che Gesù è il Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda.